Amore mio mi chiami, amore mio rispondo. Dai dimmi di che cosa ti vuoi lamentar. Mi chiedo come ha fatto quella santa di mia madre a coltivar nell'orto amore universale. Forse ti avrei dovuto partorire per capire meglio com'è l'amore che vuoi e chiederti se vuoi mangiare. Avrebbe tutto un altro sapore. Ma che sapore ma che sapore ha sentirsi l'unico che conta e che dolore fa non lasciare mai.